Il sole e il vento, da favole di Jean de La Fontaine, tradotto da Emilio De Marchi, registrato per LibriVox.org da Paolo Fedi, agosto 2007, Roma. In autunno si sa che pazzo è il tempo, ora piove, ora è bello, or splende il sole, or distende la bella iride il lembo del suo vestito, avviso a chi viaggia di portarsi per strada un buon mantello. Balsana nominarono gli antichi una stagion siffatta, in cui mai troppe le previdenze son del pellegrino. Un di questi era uscito un giorno appunto, ben riparato contro ogni incostanza della stagione, in un doppio tabarro di buona stoffa, allor che disse il vento al sole: «Ecco, costui per quel ch'io veggo ha provvisto assai ben contro gli eventi, ma non pensò ch'io so gonfiar le guance e con tanto soffiare impeto e forza che strappo anche i bottoni. O vuoi che io provi a toglier di dosso e con un colpo al diavolo mandar quel suo tabarro? Vuoi vedere? Così potremo un poco al ben volo godercela fra noi». Senza tante parole a lui rispose il sole: «Anzi, fra noi facciam scommessa chi prima saprà scoprir le spalle del galantuomo. A te comincia primo, ch'io mi lascio soffiare anche sul viso». Bastò il dirlo che il vento in un momento tien la scommessa e s'empie e si rigonfia come un pallon di nebbie e di vapori, e soffia e fischia e zufola e tempesta. Innanzi polveroso va superbo e comigno gli schianta e manda a picco più d'una nave in mar per il capriccio d'un ferraiol, ahimè. Presto sul corpo il suo mantel si strinse il viandante, sì che il vento non entri. Invan s'insinua questo dentro le pieghe e sotto il bavero, che l'uom prudente è ancor più stretto attagliasi il panno addosso. E fu tempo perduto. Trascorso il tempo suo, cedette il vento il gioco al sol, che dissipa in un tratto le nebbie e mostra il suo faccion lucente, e tanto scalda al galantuom la schiena che sudato al fin questi si tolse il palandrano. Fu potente il sole, facendo men di ciò che puote, indizio che la dolcezza vince ogni furore. Fine della favola. Il sole e il vento. Questa registrazione è di dominio pubblico.